Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un cordialissimo saluto a tutti voi cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Eccoci qua per la seconda puntata della nostra trasmissione che ormai è salita nel terzo anno. Allora, adesso diamo la parola ad Antonio che ci dirà tante cose lui. Allora, un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che accogliamo in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo anche la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto cordiale al nostro regista, certo, e al nostro coordinatore. Benissimo, saluti a tutti e due. Allora, stasera abbiamo un ospite in studio. Abbiamo l'ingegner Luigi Crivellaro. Buonasera Luigi. Buonasera Luigi. Buonasera Gesuina, buonasera Tony. E benvenuto in questa trasmissione. Grazie, per grazie. Per noi è un vero piacere averla qui. Poi abbiamo anche due ospiti silenziose, diciamo. Fuori campo. Fuori campo, bravo. Abbiamo la signora Lia De Martin, che è la direttrice del Clan Verdurin, e poi la signora Paola Velo, che è un ospite gradita, e noi diamo un saluto anche a loro e ci ascolteranno e dopo ci diranno se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male. Ecco, sono la nostra giuria. Benissimo, allora, prima di incominciare di leggere le note biografiche del nostro Luigi Crivellaro, ci ascoltiamo una canzone. Allora, la prima canzone in programma è intitolata Concerto d'autunno ed è cantata da Carla Boni. Morte portate via dal vento, si sente un brivido nel cuore. Nel cielo tutto grigio si specchia il mio tormento, la vita non avrà più sole. Senza luce si innalzano più tristi le prime note d'un destino che verrà l'inizio d'un concerto che dice a questo cuore l'autunno è ritornato. L'amore no. Eccoci di nuovo in studio per presentare l'ingegner Luigi Crivellaro. Allora, Luigi Crivellaro è nato nel 1942. Ben portati gli anni, complimenti. Molto. Grazie. È nato in piena guerra nella campagna tra Padova e Vicenza, dove la famiglia era sfollata presso parenti. La famiglia si trasferì a Padova nel 1951. Terzo di cinque figli, entrambi genitori maestri elementari, ha frequentato a Padova le medie e poi il liceo classico Tito Livio. Quindi la facoltà di ingegneria, laureandosi nel 67 in ingegneria chimica. Nello stesso anno ha iniziato un percorso lavorativo nell'industria privata che lo ha portato gradualmente a maggiori responsabilità e a livello dirigenziale fin dal 1980. La sua attività lo ha portato a far frequenti viaggi di lavoro in molti paesi di vari continenti, in particolare Asia e Americhe, oltre all'Europa, permettendogli di conoscere direttamente altre realtà, altri stili di vita e culture diverse. Si è specializzato nella fornitura di impianti produttivi per particolari settori dell'industria e della plastica e del tessile e ne ha venduti e installati a decine in un gran numero di paesi, ad esempio Cina, India, Filippine, Indonesia, USA, Brasile, Messico, Canada, Russia e paesi ex Unione Sovietica, Turchia, Arabia ed altri. Da alcuni anni esercita tale attività con una propria azienda nella quale ha recentemente incorporato un ramo d'azienda denominato LCE Edizioni, che si occupa di attività editoriale. Attività letteraria. Lettore accanito di libri di ogni genere fin dall'adolescenza, ha scoperto durante gli anni del liceo il piacere di leggere i grandi classici della letteratura italiana ed europea ed il piacere di scrivere in poesia e prosa. Nonostante gli studi universitari tecnici, non ha mai abbandonato la scrittura e nel 1987 ha pubblicato il primo volume di poesia, Compila Tascabile, con le edizioni del Leone. Volume che raccolse poesie composte nel corso di più di 20 anni e che si classificò secondo al premio Carpena di Sarzana nello stesso 87. Nel 93 ha pubblicato con Corbo e Fiore il romanzo Fuori controllo, nel quale ha inteso raccontare la Cina di quegli anni tramite una storia piena di suspense che mescola l'avventura politica, la strumentalizzazione della scienza, le ansie e ribellioni private del protagonista in un intreccio di situazioni inquietanti che sembrano appunto sfuggire ad ogni controllo. Nel 99 ha pubblicato con le edizioni del Leone un secondo volume di poesia dal titolo I soli dell'orsa, in cui sono riunite le poesie degli anni 90. Sue poesie sono state pubblicate su varie riviste, tra cui Discorso diretto e Filo rosso, e sono state segnalate a vari premi letterari, tra cui il premio Lerici. Da qualche tempo è frequentatore del clan Verdurin di San Piero di Feletto, noto circolo promotore di attività letteraria e artistica in genere. Come detto nelle note biografiche, dal giugno 2013 ha dato vita a un ramo di attività editoriale fondando LCE Edizioni, che con il marchio Biblioteca dei Leoni, avvalendosi del prestigio e dell'esperienza di Paolo Ruffilli quale direttore editoriale, ha già pubblicato 5 libri, 3 di poesie, un saggio racconto ed un romanzo, e sta preparando per le festività di fine anno 2013 un altro gruppo di 7 libri, tra raccolte poetiche, romanzi ed altre prose. Tra i primi libri pubblicati spicca la raccolta poetica I lupi e il rumore del tempo, poesie di Osip Mandelstam, con un saggio introduttivo e traduzione di Paolo Ruffilli. Hai capito, Antonio, perché ti ho fatto leggere la seconda parte del libro, perché c'era questo nome straniero che io avevo paura. Non c'è garanzia che io l'abbia letto bene, ma lo spirito c'era, insomma. Credo che tu l'abbia letto benissimo, Antonio. Allora, adesso parliamo col nostro poeta. Allora, Luigi, parlaci un pochino così di te, come hai cominciato, che cosa particolarmente fino adesso ti è piaciuto fare, che sì, lo so che scrivi, però nel tuo lavoro, ad esempio, che non è stato molto specificato. Sì. Allora, il mio lavoro, naturalmente, come avete detto poco fa, è cominciato oltre 40 anni fa. E per quanto posso dire adesso, dopo tutto questo tempo, non rimpiango di aver fatto un lavoro di carattere tecnico-scientifico, anche se ovviamente in questo tipo di lavoro ci sono degli aspetti che giustamente vengono definiti aridi, tra virgolette, e però è un lavoro che porta con sé una quantità e qualità di esperienze e contatti umani che alla fine riempiono e integrano quell'esperienza puramente tecnica che sembrerebbe specifica di questo lavoro. Come avete detto voi, ho visto molte parti del mondo, ho conosciuto delle persone e ho avuto esperienze preziose che credo mi abbiano aiutato e abbiano tirato fuori da me, tramite questi scritti di cui parliamo stasera, il meglio, diciamo, che io sono riuscito a estrarre da queste esperienze, e quindi ritengo che siano state molto importanti nella mia formazione letteraria e nella mia maturità letteraria, perché intendiamoci, parliamo ovviamente di una ormai carriera lavorativa di oltre 40 anni, 45 anni. Ma io sono curiosa, non ho ben capito in che cosa consisteva il tuo lavoro, in plastica e in tessile, no? Sì, ti posso spiegare rapidamente, sì, perché per non entrare in dettagli tecnici poco comprensibili. Si tratta di questo. Io ho sempre lavorato a livello di progettazione di impianti produttivi dedicati all'industria, non solo progettazione ma anche realizzazione di questi impianti, proprio materialmente esecuzione di questi impianti, e poi spedizione di questi impianti una volta pronti, installazione di questi impianti ovviamente tramite personale specializzato, sì, e così, certo, via, certo, che mandavamo in giro per il mondo, in trasferta, eccetera, eccetera. E questi impianti riguardavano in particolare un paio di settori dell'industria chimica e plastica. Significa ad esempio fibre sintetiche e significa ad esempio quei famosi tessuti non tessuti, che sono appunto dei tessuti che si fanno senza telaio con dei procedimenti particolari. Sì, non l'avevo quasi intuito, ma volevo essere sicura di aver intuito giusto. Io poi ho altre domande da farti, ma te le farò in seguito. Ecco, io volevo fare un piccolo inciso invece, sostituire la parola aridità con razionalità, che probabilmente rende meglio. Cioè noi abbiamo questo pregiudizio, in realtà Antonio, non è così. Ti ringrazio, perché in effetti ho usato una parola che è un po' ingiusta. Volutamente forse. Un po' ingiusta, però l'avevo messa tra virgolette. Certo, certo. Allora, tu hai scritto un romanzo e delle poesie. Sì. Allora, desideri che cominciamo con leggere qualche poesia o leggiamo qualcosa del romanzo? Io farei un po' di poesie, poi intercalare con romanzo e poi finire con qualche poesia. Allora ancora. Direi di cominciare con una, sì, prima con la canzone poi con poi la poesia. Allora, la canzone è proprio poesia cantata da Riccardo Cocciante. Ci sia, poi li incontri per caso, fra le mani di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride. ride, gioca coi sassi, sogna che può volare, e tutto questo è poesia. Sembra che non ci sia, poi ti prende la mano e ti porta lontano con lei. E non sei più il bambino che giocava coi sassi, scopri di essere un uomo e tutto questo è. Eccoci di nuovo in studio. Scusa Luigi, io ti chiederei per cortesia, perché adesso leggiamo un po' della prefazione del tuo libro Pila Stascabile, e poi leggeremo qualche poesia di questo libro e anche dell'altro, Soli dell'Orsa, ma così, se tu potessi, prima che leggiamo la poesia, spiegarla un momentino, te ne saremmo molto grati. Volentieri. Va bene? Bene. Ecco. Allora, iniziamo con la prefazione a Compila Tascabile di Ettore Fini. La poesia di Luigi Crivellaro si costruisce in racconto, ed è un racconto dalla trama esile, fatto più di vuoti che di pieni, una specie di successione di asole dentro cui passa appunto il filo delle parole. Da un passo all'altro perdo parole dai lembi freddi del bavero. Le parole chiedono una breve vita che non senza fatica concedo. Il filo di questo racconto procede in un balenare intermittente, proprio come di specchi contigui sui quali si disegna un tracciato minimo ma esemplare della vita e, in primo luogo, di quel corpo che ne è il tramite. Sto frugando lungo le pareti delle mie viscere con pila tascabile e spazzola, fatta di ciglia attente. La forma attraverso cui si esprime il racconto di Crivellaro è un diarismo di specie tutta particolare, nel quale ai dati in sé e per sé, ai resti memoriali, ai giudizi e ai malumori, si sovrappone e quasi sostituisce il contrappunto intellettuale. In una cronaca in qualche modo dirottata, giocata soprattutto sulla tensione. Ecco allora che, al di là degli appunti e delle sottolineature, il logos di partenza, sottoposto ad una sorta di continua pendolarità, a quell'intermittenza di cui si diceva, si trasforma piuttosto in una successione. Proprio come la successione dei fotogrammi, ma, per intendersi, in ambiti più cadenzati e ristretti, con un effetto, per il ritmo del racconto, da corrente alternata. Bene. Allora, ecco, allora, prima di Albe mai vedute, sentiamo un pochino il... Albe mai vedute è una poesia che risale sicuramente agli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70. Che cosa dice? L'alba porta il risveglio dai sogni. Si ritorna nel proprio corpo, dice il poeta, tra virgolette, estenuati. Perché? Perché ogni alba si lascia addosso una cicatrice a rilievo, che è dura perché contiene il nostro passato. Forse è un effetto collaterale della forza terrena o divina, non lo so dire, che provvede ad alzare il sole ogni mattina. Albe mai vedute si incidono dure a rilievo sul ripetuto sonno e sul risveglio dal passato. Immagino che nell'attimo dell'alba si muova nel cuore qualcosa della terra e del Dio che solleva il sole sopra i vagabondi sogni, sopra l'estenuato ritorno dell'uomo nel suo corpo. Bene, adesso io da Pira Tascabile leggo duetti. Adesso sentiamo. Vuoi una breve introduzione? Una piccola, sì. Dunque, duetti, questa è una poesia più recente di quella letta poco fa. Siamo negli anni 90. 80, forse 90, primi anni 90, fine anni 80. I miei primi approcci col mondo cinese, non proprio primi a quel tempo, ma insomma i miei approcci col mondo cinese rappresentavano una sorta di occasione di distacco totale e quasi di ribellione, forse anche ricercata da me, dal nostro mondo. Dal mondo intendo dei sentimenti e delle relazioni lasciate a casa. Bene. Allora, duetti. Questo paese mi sta procurando una quantità di genuine sorprese. Il merito non è mio. È che aleggia sulle vie di qui il distacco da ogni regola occidentale. Io già tutte le ho dimenticate. E di più ancora mi lascerei ribellare. Intanto mi dedico ad ascoltare. I cinesi parlano per ometti e figurine che gli escono di bocca in forma di gridolini aspirati. Io, mentre viaggio, seguo i loro duetti inestricabili, deliziato. Poi la sera agguanto il telefono e senza volere mi esprimo con inconsuete sinuosità e sospingo lungo il filo avamposti incongrui. Si fanno strada sparendo nello spazio. Di là mi tornano raggiustati come decenza impone. La prossima è da un passo all'altro. Da un passo all'altro. È una breve composizione che parla di parole faticose, dette con fatica, anzi, lasciate uscire con fatica, una specie di esile fila indiana, che parole che escono nel gelo, e pur nella brevità della loro vita, il poeta spera che lascino un segno. Da un passo all'altro perdo parole dai lembi freddi del bavero. Le parole chiedono una breve vita che non senza fatica concedo. Bella. Bella, bella. Allora, io invece leggo disenergia. Ecco, io, se devo essere sincera, non disenergia. Ecco, questa parola... Non esiste. Come non esiste? È un neologismo. Questa parola, allora, perché disenergia? Spiego l'occasione in cui è nata questa poesia. Questa poesia è nata in volo, durante uno dei miei voli transcontinentali, e sentivo dentro di me, in quell'occasione, come delle oscillazioni, dei rumori, quasi in parallelo ai rumori del volo, che ormai penso tutti, più o meno tutti conosciamo. esprimevano queste oscillazioni, queste irregolarità, esprimevano un'inquietudine, una incapacità, secondo me, di esprimere una volontà di darmi una direzione, di probabilmente richiamavano delle paure solidificate nella mia coscienza, nel profondo, e che da questi rumori, da queste oscillazioni vengono come smosse, come da una scossa sismica. Allora, disenergia, implosioni, cesure, qualche irregolare oscillazione, verticalità obliqua sul mare invisibile, volontà disarmata, ma vortici compressi sommuovono dure sonorità nel profondo di me, che ancora non muoio, come temo ogni giorno, senza esplodere alcuna musica né tonante né tenera. Concludiamo con un'altra coppia di composizioni, e la prima è Bisogna vedere. Questa poesia parla di rapporti interpersonali, sempre difficili, che nascono su fondamenta di solito fatte di parole e fanno crescere la costruzione a due che le parole hanno unito. Ma bisognerà vedere se quelle parole hanno un colore. Quale colore hanno? Azzurre o nere? E la poesia spiegherà cosa vuol dire azzurre o nere. Bisogna vedere nel fondo di ogni parola, azzurra o nera, quale amore la spinge o quale paura. Ecco nascere come onde le vite di due che un tempo erano chini sotto giorni innumerevoli in due città lontane. Bella, però la spiegazione ci vuole proprio. Io leggo distrazione. Distrazione. Scusami che la trovo perché non l'ho sotto mano. Credo che sia pagina. Eccola qua. Ah, distrazione, eccola qua, sì. Questa qui, anche questa parla di rapporti tra le persone. A volte in un rapporto di intimità sentimentale può subentrare una, tra virgolette, distrazione. Una distrazione mentale, una distrazione intellettuale, una distrazione sentimentale. Ci si assenta dal rapporto, lo si vede come da fuori e lo si giudica, o meglio si tenta di evitare di giudicarlo perché diventa pericoloso, e forse leggendolo si capisce meglio perché. Bene, distrazione. Uscii da me stesso con grande agilità e mi sistemai sul bordo del letto. Seduto di sbiego, osservai le loro manovre un po' ridicole e confuse. Una lampada ancora accesa dava un brivido di chiarore alle ombre delle cose. Qualche smorzato suono notturno vibrava e svaniva qua e là nella stanza. Ero intento, ma distratto. Vedevo, ma ignoravo. Capivo, ma non sapevo, e negavo che si intuisse alcun latente impaccio infilatesi tra i due. Durai tempo, non so quanto, a ricusare il senso della mia fluttuante assenza e mi obbligai finalmente a rientrare. Trovai indizi già pesanti di tedio e gelo. Dimostrai un improvviso assalto di piacere e mi volsi a lei per baciarla. Bene, dopo questa terna, 6 poesie, abbiamo letto, tutte molto belle, adesso ti ascoltiamo una canzone che spero sia anche questa un po' bellina. Difatti si intitola Ultime foglie ed è cantata da Irene Fargo. Ah. così triste l'autunno quando è finito l'amor, e con la pioggia che cade un ricordo è nel cuor. L'autunno fa cadere l'ultime foglie che il vento raccoglie portandole a te. In ogni foglia gialla che t'accarezza c'è tanta tristezza che parla per me. Come il mio pianto d'amore la pioggia viene giù. Nostri sogni più belli d'un tempo che fu. L'autunno fa cadere l'ultime foglie che il vento raccoglie portandole a te. In ogni foglia eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite graditissimo, al quale chiediamo appunto di parlarci un po' del suo romanzo Fuori controllo. Il mio romanzo, abbiamo accennato prima durante la introduzione che si tratta di una sorta di giallo politico la cui vicenda si svolge in Cina, nella Cina degli anni 80, di primi anni 80, quindi era una Cina ancora semi-medievale, se mi passate questa espressione, se confrontata con quella che è diventata negli ultimi 20 o 30 anni. Si tratta di questo, rapidissimamente: un tecnico veneziano, per conto di un istituto scientifico veneziano e su incarico del governo cinese, mette a punto un metodo di condizionamento collettivo che il governo cinese intende utilizzare per il controllo delle nascite, e quindi questo tecnico si reca in Cina per questo scopo. Inizia ad utilizzare questo metodo mettendo a punto un segnale che viene trasmesso tramite gli apparecchi televisivi in una zona limitata della Cina per fare una prova di funzionamento, diciamo così, su scala industriale. Questo metodo ha successo e i risultati che statisticamente vengono raccolti da un team, da una squadra di tecnici cinesi, guidati però da una scienziata, da una ricercatrice cino-americana, quindi americana ma di origine cinese, danno ragione all'esperimento. Il tecnico italiano, dopo un paio di mesi, se ne torna a casa, va sulle Dolomiti con la moglie, il figlio, il bambino piccolo. Mentre sulle Dolomiti cosa succede? Succede che viene richiamato da questa collaboratrice cino-americana, e che gli dice: ci sono dei grossi problemi, torna subito. Ed ecco che lui ritorna e viene a sapere che cosa è successo. Uxoricidi. A occhi chiusi, la testa appoggiata all'indietro, Modena palleggiava questa parola da un capo all'altro del suo cervello, senza riuscire a collegarla in un nesso logico con l'operazione di Weihai. Dopo lo sconcerto del primo momento, ora stava cercando di analizzare la cosa con calma. Ripercorreva minuto per minuto tutte le operazioni di programmazione del messaggio elettronico che lui stesso aveva eseguito e si sentiva certo di non aver commesso errori. Ma anche volendo ammettere l'esistenza di qualche errore in un momento non ancora conosciuto dell'intero lavoro svolto, tuttavia non si poteva spiegare l'apparizione di un simile effetto, di una così terribile manifestazione di efficacia perversa che mai si era riscontrata in precedenza nel corso di tante sperimentazioni. «Non capisco», disse riaprendo gli occhi, «non era mai accaduto nulla di simile prima d'ora». L'auto filava sulla strada assolata in direzione di Weihai. May King sedeva accanto a lui. Eppure Tom sembra indubitabile un nesso tra il messaggio e questi crimini. In tutti i casi le donne sono state uccise dal marito al termine di un rapporto sessuale e in tutti i casi l'uomo ha dichiarato di nutrire un profondo rancore verso la moglie, colpevole ai suoi occhi, di volerlo defraudare servendosi del sesso allo scopo di imporre la sua volontà. Sembrerebbe logico dedurre che il rifiuto dell'uomo alla donna, indotto dal messaggio, sia in questi casi degenerato in sospetti a carattere persecutorio che hanno compromesso il suo equilibrio psichico, tanto da fargli apparire necessaria la soppressione della donna per eliminare un'intollerabile fonte di insicurezza. Il timore è che questi atti terribili dilaghino senza possibilità di controllo. Anche oggi ne è stato segnalato uno. Fino ad ora si è riusciti a non far trapelare notizie e timori, e per fortuna qui in Cina queste cose si possono fare ancora con una certa facilità. Ma non possiamo sperare di farcela ancora per molto se gli uxoricidi dovessero continuare. Modena era stato ad ascoltarla di nuovo ad occhi chiusi. Tecnicamente la faccenda non si spiegava. Tutto era stato verificato e sperimentato. Doveva trattarsi di individui psichicamente segnati in modo specifico, sui quali il dosaggio poteva essere risultato eccessivo e aver prodotto... Ma perché? Modena si interrogava, sapeva di non aver trascurato nulla e tuttavia eccolo alle prese con una responsabilità imprevedibile e pesantissima. Ma ancora prima che a questo, Modena pensava a quegli uomini. Forse sentirsi svuotati di potere dalle loro donne li aveva condotti all'omicidio. Certo, ora capiva, si sentivano assorbiti ed annullati dalle donne, si sentivano risucchiati da una inesorabile ventosa, depredati dei loro contorni di uomini. Non lo sapeva anche lui? Non era così che usciva anche lui dall'amore? Riaprendo gli occhi fissò May accanto a lui e disse «Ma non sempre è così, non con te». Lei lo guardò senza capire. Modena rientrò nelle sue riflessioni e poco dopo sembrò che dormisse. Era partito da casa 24 ore prima, cosicché May lo lasciò riposare senza disturbarlo. L'auto filava mentre il sole scendeva sulle colline a occidente e i colori della campagna si facevano caldi e pieni. Sarebbero arrivati a Weihai in piena notte. Modena non dormiva, invece, ma si sentiva lontano, in un limbo isolato, spettatore di una pellicola che gli scorreva davanti ad occhi chiusi. Bene, bello, deve essere bellissima. Lo leggerò senz'altro. Ecco, questo esotismo, questa cosa straordinaria. Ma scritto bene, proprio... Il cercare bello, di capire bello. Una cultura che non è la propria. Avrete intuito forse che... Modena ovviamente è il nome del tecnico che è andato in Cina, May è il nome, May King è il nome della sua, chiamiamola così, assistente cino-americana. Non avevo detto, ma forse già lo si intuisce, che tra i due durante il primo soggiorno di Modena in Cina si era sviluppata una relazione amorosa, sì. Malgrado Modena avesse a casa moglie e figlio. E quindi questo è già un inizio di complicazioni. Certo. Ma comunque è esposto molto bene, bello, bello. Allora, ci fermiamo o vai avanti ancora? Direi che ci fermiamo una canzone e poi facciamo un altro. Benissimo. Un altro, allora, la quarta canzone in programma è cantata dai James, intitolata Per chi? Presto, amica mia, torna presto a casa mia, non andare per il mondo senza me. Ti perderesti, come stai perdendo me? Torna presto. Io di notte sono solo, se ai pensieri mi abbandono, mi vien voglia di morire, ma perché? Io mi domando cosa valgo senza te, per chi vivrò? Per chi il cuore batterà nel buio, per chi se tu non ci sei, per chi sorridere e scherzare ancora, per chi io vivrò? Se tra le foglie di quel prato è rimasto nei tuoi grandi occhi blu. Ritorna presto, amica mia, se manchi tu, per chi vivo? Allora, rientri tu, Antonio. Sì, rientro io per leggere una parte della trama che possa dare così una spiegazione degli eventi in atto. Modena mette a punto e diffonde un messaggio correttivo che annulli gli effetti perversi del primo, e in breve tempo le rilevazioni condotte dalle autorità locali e dal gruppo di consulenti organizzati da May indicano che l'operazione è riuscita. Modena però non riparte per l'Italia, perché viene ricattato da una funzionaria di alto rango governativo che vuole usare il suo metodo a fini politici per imporre più agevolmente all'opinione pubblica il nuovo corso della politica cinese del dopo Mao, la politica della modernizzazione, dell'apertura all'Occidente, dell'attivismo economico. A trattenere Modena in Cina si presta, in parte costretta, in parte per vantaggio economico, anche Mei Qing, che a tale scopo riprende e continua la relazione amorosa con l'italiano. Modena inizia nella città di Hangzhou il lavoro sul nuovo messaggio, ma viene rapito da un gruppo di dissidenti pro-maoisti che lo portano a Shanghai perché prepari e diffonda un messaggio ad azione opposta. Modena tenta di opporsi, ma quando i rapitori gli dimostrano che sono in grado di portare minacce e pericoli alla sua famiglia in Italia, si arrende e lo elabora e diffonde il nuovo messaggio con successo, tant'è vero che a Shanghai iniziano a verificarsi scioperi e dimostrazioni antigovernative. Tuttavia, contro le promesse, i dissidenti non permettono a Modena di rientrare in Italia, ritenendolo necessario per ampliare la loro campagna di ribellione al governo centrale. Modena, prigioniero in un hotel di Shanghai, riflette sulla situazione insostenibile in cui si è fatto coinvolgere e che mette a repentaglio anche i suoi affetti familiari, già sabotati dalla relazione con May, oltre che dalla difficoltà ormai annosa del suo rapporto con la moglie Elena. Abbiamo avuto successo, dottor Modena, e la preghiamo di accettare le nostre congratulazioni. La sua cura sta dando i risultati sperati. Modena accennò appena un sorriso, aspettando il resto che venne subito. Ma adesso è essenziale continuare, estendere immediatamente il trattamento ad altre parti del corpo malato. E bisogna trarre profitto di questo momento in cui la controparte è sorpresa e disorientata. È imperativo agire senza ritardi. Non era questo che Modena si attendeva, anche se, pensò, il semplice buonsenso glielo avrebbe dovuto suggerire, se ne avesse usato appena un poco. Invece aveva ceduto alle richieste di quella gente come uno sprovveduto, evitando di porsi logiche domande e di darsi le facili risposte. L'amarezza e la delusione verso se stesso furono maggiori della stizza contro i suoi carcerieri. «Che cosa intende, signor Lin? Io devo tornare in Italia, come d'accordo?» «Lei ci tornerà, e assai presto, ma prima ci dovrà mettere in condizione di telediffondere il messaggio in altre province della Cina. Se riusciremo a creare numerosi focolai di opposizione simultanei, l'effetto sarà realmente decisivo. Lei mi sta chiedendo l'impossibile!» La voce di Modena era appena udibile, e Lin ridacchiò benevolo facendo gorgogliare la pappagorgia. «Non sia assurdo, caro amico, quello che le chiediamo è facilissimo. Lei non dovrà neppure uscire da questo edificio. Nel laboratorio al quarto piano, che lei conosce, sono state apprestate le apparecchiature necessarie. Noi abbiamo convocato qui alcuni ottimi e fidati tecnici da varie province, affinché ricevano da lei le istruzioni per la modulazione del segnale portante allo scopo di inserirvi il testo del messaggio. Riteniamo, salvo una sua indicazione diversa, che l'istruzione, incluse le prove circuito chiuso di verifica, non richiederà più di 12 ore. Dopodiché lei potrà ritornare a casa. Modena non replicò. Siamo lieti che lei accetti la nostra proposta. I nostri tecnici sono attualmente in viaggio alla volta di questa città. Contiamo di averli qui tutti entro questa notte. Domani mattina la sua lezione potrà avere inizio. A domani, dunque. Uscito Lin e gli altri che lo accompagnavano, Modena sedette di fronte alla finestra osservando, senza vedere, la città, il porto. Gli restava poco più di una notte per rendersi conto, finalmente, di che cosa avrebbe significato per lui quell'avventura. Che accettasse o meno la nuova richiesta di Lin era certamente la fine della sua invenzione. Una fine ingloriosa, bisognava dirlo, preparata e preannunciata dalla gestione superficiale che egli stesso in primo luogo e l'ITCC ne avevano fatto. Quella tecnologia era un'autentica arma, come aveva detto May King, e si sarebbe dovuto affidarne la protezione a chi aveva competenze in materia. E inoltre, anche se impegnata esclusivamente per limitare l'incremento demografico, di cos'altro si trattava se non di una colossale violenza collettiva, parente assai prossima di sevizia da lager, più che strumento di progresso, come si era preteso di venderla? È proprio... l'hai scritto così, bene, questo. bello. Bene, allora, io voglio farti una domanda, ma prima finiamo. Vuoi leggere tu una poesia, Luigi? Sì, volentieri. Sì. Aspetta un attimo solo che la troviamo. Io leggerei la poesia Vecchi, sì. Dai soli dell'Orsa. La introduco in due parole. Qui credo si possa avvertire il sentimento frustrante del tempo inesorabile, che è un esecutore inarrestabile di una sentenza, di una sequenza implacabile. Il disagio dell'esistenza, la la paura che fa nascere in noi la visione della vecchiaia, il sentimento che ad essa non possiamo sottrarci, altro che in modo illusorio, tramite una vera e propria acrobazia intellettuale. Passo a leggere. Sì. Vecchi, se anche tutte scintillassero di frantumati specchi le stanze, fedelmente mi riconoscerei nei loro profili sfatti, boe affioranti, d'anime soverchiate. Anche noi, ogni giorno, un poco, verso il fondo si cala, e solo ci soccorre uno sforzo di logica a rovescio, una marcia a ritroso, una lettura all'inverso, insomma, una risalita a testa in giù. Muti dal retro dello specchio trasparente, s'osserva il lato dove, incrinata e inquieta, s'affaccia la reliquia nostra, che accoglie, assimila e poco graziosamente accumula i frutti della maturità. Bella, bella. Tu cosa leggi tu? Io leggo Vorrei tornare, ma prima naturalmente ci ascoltiamo una spiegazione. La canzone. La canzone, sì, che è la Reciprocamente. Reciprocamente. Che è una canzone del 1987 dall'album Un giorno all'italiana di Nilla Pizzi. Yes. Resto qui, questa stanza che sa di te. Attimi si rincorrono dentro me. Resta ormai un abbraccio per vivere, quei tuoi sguardi un po' timidi, ciò che sei. Reciprocamente ci amavamo, ma negli occhi l'ombra di un addio cresce dentro me la solitudine. Perché reciprocamente ci scambiamo pezzi di un passato ormai lontano che ci ha fatto male, ma rimane vivo. Capiti mai, non si può stare insieme senza allegria. Io e te, con le ali tagliate ormai, senza voglia di correre, siamo qui noi. Reciprocamente ci amavamo, ma negli occhi l'ombra di un addio cresce dentro me la solitudine. Perché reciprocamente ci scambiamo pezzi di un passato ormai lontano che ci ha fatto male, ma rimane vivo. Sforziamo di riempire un vuoto troppo grande, non sappiamo più ricominciare io e te. ci sforziamo di riempire un vuoto troppo grande, non sappiamo più ricominciare io e te. Eccoci di nuovo in studio con l'ultima tranche che è di pochi minuti. Perfetto, ecco, naturalmente vorrei tornare, prima una breve introduzione. Credo che un po' tutti noi, in certe circostanzie almeno, siamo alla ricerca di un appiglio per ricomporre un po' la nostra vita, riordinarla e farla rinascere su basi più limpide. Insomma, senza dimenticare però il passato. Quindi ricreare il futuro attraverso il filtro del passato. Vorrei tornare e ripartire da un istante prima, ma certo ritrovarmi anche le mie catene più tenaci e riconoscermi nel nuovo nato. Crescere dall'interno e comunicare per una serena osmosi indolore, uomo trasparente ma non privo di una spessa ombra, quando all'indietro, rivolgendoti, cerchi conforto. Bene, bella. Io leggo Notte invece. No. Notte. Questa è una poesia. Scusate, mi devo trovare la pagina, eccola qua. Va d'accordo col fatto che siamo in ottobre, perché si riferisce proprio a una notte di un mese di ottobre, di un anno che non è specificato. Che cos'ha questa poesia? È una poesia che parla del sentimento che frequentemente è in me, credo in molti, di sentirsi derubato della capacità di comunicare, della capacità di esprimersi e del senso di compiutezza, che invece si trasforma in un senso di mancanza, di assenza e di insufficienza. Allora, notte del mese di ottobre di un anno che non ho animo di dire, animo che qui giace già inerme e tace. Qui nella notte conto le legioni trapassate, cui mi scoprirò presto unito e insieme spento, e di terra opaca gli occhi pieno. Sono troppo, lo so, ansioso del passato, del vuoto rimasto dove credevo di me avere lasciato segno. Abbiamo pochi istanti, quante volte me l'hai detto, e io non riesco a coglierli questi fiori nel giardino fugace degli amori. Rapito dei sentimenti d'uomo, riscatto senza fine dell'uomo le paure, e fredde mi trascinano idee verso una meta oscura e definitiva. Dall'altro lato del vetro ti intravedo e tento, con pallido piacere o con pallido dolore, di mandarti un debole segnale cerebrale. Posso fare un intervento? Non so, io invidio i poeti che hanno questa capacità di sintesi estrema, di distillare i sentimenti. Vorrei sapere l'autore che cosa ne pensa di questo, in sintesi. Ha detto tutto, i poeti di questo non capiscono niente. Sono i critici probabilmente. Sono i critici che forse... Questo è buono. O forse sono i lettori che... Certo. Ovviamente la poesia va ascoltata, ma va anche letta e riflettuta, e quindi è chi legge che estrae forse e distilla forse meglio del poeta stesso i significati dei versi. Naturalmente quando si scrive una poesia c'è qualcosa che nasce da dentro, altrimenti non si fa una poesia. Certo. E questo è qualcosa che nasce da dentro, deve venire poi interpretato da chi legge e chi ascolta. Certo, diciamo che il lettore deve fare un po' con una storta, un alambicco, diciamo, qualcosa, deve fare così di una sintesi di questa natura un qua. Una, come posso dire, una reazione chimica. Un processo di distillazione. Perfetto. Va bene, allora siamo arrivati alla fine. Noi ringraziamo con vero sentitamente proprio piacere questo binomio indestricabile tra tecnico e poesia. Grazie a voi. Benissimo, guardi che l'aspettiamo, guarda Luigi che ti aspettiamo. Grazie. In dicembre. Volentieri. Ecco, grazie ancora e ringraziamo le ospiti silenziose e le salutiamo con vero piacere. E grazie Antonio della... Grazie a voi, ecco, e a Dio piacendo, alla prossima volta. Un saluto a tutti anche da parte mia. Sì, allora come sempre io vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.